176. Fritto alla romana primo. Mettete al fuoco un battutino di cipolla e burro e quando sarà ben colorito, cuoceteci un pezzo di magro di vitella di latte, condendolo con sale e pepe. Allorché la carne sarà rosolata, bagnatela con marsala per tirarla a cottura. Pestatela nel mortaio e per ammorbidirla alquanto, servitevi dell'intinto rimasto, e se questo non basta, aggiungete un gocciolo di brodo, e per ultimo un rosso d'uovo, ma badate che il composto deve rimaner sodettino. Ora prendete delle cialde, ossia ostie non troppo sottili, e tagliatele a quadrettini consimili a quelli che usano i farmacisti per le presine. Frullate un uovo e la chiara rimasta, poi prendete su con le dita un'ostia, intingetela nell'uovo e posatelo sopra uno strato di pan grattato. Sulla medesima ponete tanto composto quanto una piccola noce, intingete nell'uovo un'altra ostia, fatela toccare il pan grattato da una sola parte, cioè da quella che deve rimanere all'esterno, e con essa coprite il composto appiccicandola all'ostia sottostante, panatela ancora se occorre e mettete il pezzo da parte ripetendo l'operazione fino a roba finita. Friggetelo nell'olio o nel lardo e servite questo fritto come piatto di tramesso. Con grammi 200 di carne senza osso otterrete una ventina di questi bocconi.